si occupa questa volta a parole in breve è quella raccontata nelle pagine del romanzo La ragazza della porta accanto di Jack Ketchum, una storia tratta da una vicenda vera. Accadde nel 1965 nel Midwest e vide come protagonisti una sedicenne, la sua sorellina, una donna di 36 anni e un branco di normali ragazzini della provincia americana. L'autore, quando decide di evocarla sotto forma di true crime debordante verso l'horror, l'ambienta qualche anno prima, nel 1958, e la sposta nel New Jersey, entrambe ambientazioni che gli sono più congeniali. Quella pubblicata in Italia da Gargoyle Books lo scorso novembre inizia come se fosse una versione riveduta e personalizzata del kinghiano Stand By Me, e forse non è un caso che proprio Stephen King firmi la postfazione al volume. È estate anche in queste pagine, un'estate che nessuno dei protagonisti riuscirà mai a dimenticare, e la loro vita procede in una rassicurante monotonia fatta di sagre locali, affascinanti giostrai, gamberi d'acqua dolce da liberare subito dopo la cattura e giornate trascorse tra banali avventure e grottesche manie tardo infantili, fino all'arrivo di Meg e Susan, 14 anni la prima e 9 la seconda, accolte da Ruth dopo che un incidente stradale ha ucciso i loro genitori. Susan è ancora alle prese con la guarigione delle ferite, mentre Meg è un fiore di adolescente che non sa quanto potrà alterare equilibri molto più precari di quanto il comune senso del pudore faccia apparire. Meg è l'ignara porta d'ingresso verso la consapevolezza di una Peyton Place in cui i mariti che non sono fuggiti, lasciandosi alle spalle mogli depresse e nidiate di ragazzini, sono quantomeno pronti a cogliere ogni occasione. Senza fare nulla, senza civettare, né rendersi conto del fascino che promana, la ragazzina è anche la preda di una specie di esperimento malato. Avete presente Philip Zimbardo, lo psicologo che nel 1971 prese alcuni suoi studenti e ad alcuni assegnò il ruolo di carceriere mentre ad altri dovevano fare i reclusi? Ecco, Zimbardo fu costretto a interromperlo, il suo esperimento, per l'eccesso di immedesimazione e un crescendo di violenza che lasciava a pensar male per l'incolumità psichica e fisica dei suoi studenti. Questo è stato chiamato l'effetto Lucifero, quello che trasforma persone qualunque in sanguinari aguzzini, pronti a qualsiasi cosa può far del male, ed è stato usato per spiegare le torture a cui sono stati sottoposti, per esempio, coloro che sono stati rinchiusi nel carcere di Abu Ghraib. L'effetto Lucifero è quello che si manifesta anche in questo romanzo, dove Ruth, una madre già provata da una famiglia distrutta e da 3 ragazzini da crescere da sola, entra nel gioco prendendone le redini. Suoi inizialmente obbedienti discepoli sono i figli e gli amichetti del quartiere, belve sempre più assetate di sofferenza che varcano ogni soglia, prima guidati da Ruth e poi sempre più ardimentosi da soli, allettati dal sapore della trasgressione e del potere di vita e di morte su Meg. Sono persone normali i cattivi di questo romanzo, e lo sono anche i buoni. E soprattutto questi ultimi non sono trasparenti, cristallini, impavidi e coraggiosi, come ci si aspetterebbe da un buono. Sono tormentati, attirati anche loro dal potere, incapaci di opporsi al percorso indicato loro da Ruth. Si salvano parzialmente solo perché la loro umanità non viene del tutto annientata. E se ciò non accade, non è per proprietà d'animo, ma per un caso, quasi un incidente che li salva dall'annebbiamento totale. È una storia dell'orrore pesante, quella di Jack Ketchum, pseudonimo dello scrittore Dallas Meyer. Una di quelle storie che si avrebbe voglia di abbandonare perché oltre la normale sopportazione, ma è anche lo specchio del lato oscuro che un effetto Lucifero innescato dalla più normale umanità rischia di far deflagrare. Dalle tue labbra cantano Sean Wright e John Woodward come un'innocente ballata acustica, ma di davvero innocente in questo romanzo c'è solo Meg, così come erano innocenti molti coloro che vennero torturati ad Abu Ghraib.